abbiamo tutti e quattro filari e basta, perché li hanno bruciati. Sì, una volta sono proprio le schiacce del finale, costa troppo. Costa troppo, non mi serve il lineare, mi serve l'architettatore che c'è dentro, serve per un amico che mi fa la lineare, e il suo è piccolo e mi ha detto se glielo procuravo per provare meglio il lineare, visto a provare mille due, lui fa qualche modifica in più, era per provare quelli grossi a 24, capito? Gli serviva una cosa del genere. Non proprio le capito, le sembra che non sia a posto di ricordo. Sì, quella cosa, quella alimentatore non è stata costruita, già l'hai visto, c'è un trasformatore, un ponte di rivoli e mi sembra che sono 8 condensatori collegati in parallelo, mi pare che sono tutti. E basta, non c'è altro. Poi la tensione 24 volt è diretta, quindi no, non c'è nessuno zio né niente. Dovrebbe essere almeno un 30 ampere quello che è alimentato a 30.5. E la voglia che te lo porta qualsiasi fino a 300 watt, dopo il periodo, anche qualcosa in più, che ce la fa. Ma per adesso? A 700 watt anche di più ti riesce a pilotare, cioè il lineare, un B750, un di quello a 24. E c'è già un 750 dentro, lì, il 750 è 60 giga. C'è già dentro, una bella corrente, 30-29, una cosa del genere, un po' di cose. Va abbastanza bene, io ce l'ho qua e va bene, va benissimo. L'ho lavorato e non c'è niente di lineare, perché l'ho smontato, l'ho sbatto, le casse, le coperti ho sempre silenziato, il frontalino l'ho eliminato e l'ho fatto diverso. Col suo, ma l'ho rivestito tipo legno, con le cose, è diventato un alimentatore, col tasto che solamente accende e spegne, e la luce che gli ho messo io, e gli attacchi a tipo banana per attacchi rapidi, se voglio attaccare qualcosa a 24, così è fatto tipo un alimentatore, lì quando tu vedi di fronte è un alimentatore, e l'ho fatto preciso. E è stato bene come ti ho detto io in pratica, hai fatto come modifica, già va bene, già. Ok, fa girare lui, non so, non mi ricordo che ci è rimasto neanche, perché si mettono a guardare il computer poco fa e c'era uscito in un sito, allora l'ho preso e l'ho spento adesso, se non mi casino tra una cosa e l'altra, o faccio uno o faccio l'altro. No, certo, dico, no, ne ho uno nuovo, io, nuovo di pacca, Antone, ne ho uno nuovo di pacca funzionante, di quelli, ne ho uno nuovo, giustamente non ho bisogno di nuovo, ce ne ho uno nuovo, ne ho quelli, capito, ne ho uno nuovo, ce l'ho qua al garage, mezzo coperto e l'ho solo provato e basta, ce ne ho nuovo, era scattolato e tutto. Sì, che buono, allora, se ce l'hai, che nuovo, nuovo. Ma ce l'hai di riserva, ce l'hai. Avanti Tomino. Ah, ti hai sparito, boh? Claudio, ci sei? Già sono qua. Già, va bene. Tu guarda me della roba vecchia tua, comunque farà cortesia, tanto ci devi passare la cosa, prova a chiederglielo questo finale, a volte non ce l'ha, se ce l'ha poi ci faccio io, tu dici solamente chiedi se ce l'ha e se si può avere, capito, perché ne ho uno stesso, nuovo lo stesso questo, quello è a quarti, quello di Claudio e quello diverso, il modello più recente, invece il mio è quello prima ed è quartato, capito? Però se no apri quasi preciso dentro le funzioni, è uguale. E però c'è questo finale di audio che vuole cambiato, capito? Spostandolo, e quello lui ha posto, è perfetto, e così ce l'ho anche a posto quello lì, capito? Sì, io ho capito. Va bene, cioè mi... adesso chiedo domani. Ci passo, voglio attirare, glielo chiedo, se ce l'ha, te lo vai e lo ritiri. Sì, solo per sapere, per andare a cittadini già a posto, a me, capito? Poi c'è tanto me lo ritiro io, capito? C'è tanto me lo ritiro io, capito? Era solo per andarci a posto da qua, capito? E tanto che stai passando, se stai già dovevo andare, ci dovevo andare, Ma è tanto che tu stai passando, che devi passare, fai la cortesia, lo chiedi se ce l'ha e poi già ci vado io, capito? E quello infatti stavo dicendo, che passo, chiedo, se ce l'ha ci vai e lo vettivi, non c'è problema. Ma non è tutto questo, troppo lontano. Ma Antonello è un pignotolino, Antonello è quello che lavora la fusa. Devo chiedere a lui. Ma questo si deve parlare. E adesso va a chiedere, e poi non cosa prova a chiedere anche se ordinandolo cosa verrebbe a costare. Perché se lo usa a costare di più, giusto, non è che ti ho fretta, eh. Comunque se non è una cosa esagerata, capisco, se no. Se non supera le 15 euro ordinatolo, o anche 30, se non supera le 15 euro però. Ah, non ti arriva a 15 euro, se io no lo costerà 5 euro. L'integrato del tappagliato costava intorno a 2,20, 2 euro qualche cosa. No, se non ce l'ha ordinandolo, mi ha capito mai. Che adesso lo mangio l'occhio, perché si perderà là? E se così ti ricordo che hai fatto bene anche. È positivo, dai, se è stato esatto se farà questa cortesia, però così lo penso se lo piatto, quello lì. Ci vuole solo quel finale lì, l'altro si fa a posto, ci manca solo quel finale lì, così lo metto a posto e c'è anche quello. Non ne farò niente, lo metterò da parte, però è sempre guardato, capito? È guardato e va bene, e va bene, e non prende sgratteri, è più selettivo come barattino. Un 23 canali o 40 canali è? No, è 23, 20, no, 34 è, no, 23, 34 è. 34 canali è, ed è un Midland. E se non c'è scritto Midland, c'è scritto Ala, Midland è andato dopo, forse non lo so, non c'è scritto Midland, non c'è scritto Ala, c'è scritto Ala 88, mi pare che sia poi. Comunque non monta quel finale, manca il cappagliato 25AP oppure 017. L'integrato che stai dicendo tu, adesso che mi è venuto in mente, è l'integrato centrale che ti dà l'FM quello. Capito? Adesso mi è venuto in mente, la N, non me la nuovo. È un integrato che monta al centro proprio dello stampato. Audio, è il finale audio, capito, è il finale audio. Io ho guardato nell'altro, anche questo è fatto preciso a quello lì, questo è il mondo l'ha detto. Ne ho tre qua, questo è un integro, c'è una paiette e un'ara. Però appesi sono per tre precisi, i finali combaciano la perfezione per tre precisi, tutti i finali che ho detto sono tutti la stessa misura, però non c'hanno quel numero lì. Questo numero non c'era, c'era quello lì che è in quel stato, non so per quale motivo. Gli altri c'erano un numero diverso, hai capito? Ho capito, va bene, va bene. Comunque questo mi ha detto che c'è, cioè, tu prova a chiedere. Se c'era così lo metto a posto, dai, lui non me ne farà nulla, lo regalerò a qualcuno, cosa ne so, però lo prende. Capito, guardato, no, me lo tengo guardato, me lo tengo perché so che va meglio guardato a quanto ho capito da Claudio che questa trasmissione. Ehi, glielo grido, guarda tu la KB23, Zodiac, il console, Corte Possibile Sears, tutti quelli che ci ho guardato, lui ci vanno molto bene. Molto molto bene, questo vabbè, questo è un semidigitale, è un presente di ultima generazione, addirittura sto andando con l'MC80, cioè costa più il microfono che la radio, con l'adattatore, però la KB23 è sempre qua, mi è solo un po' accendo, stavo ascoltando poco fa, coltane più tre e non ce n'è per nessuno, sono belle radio, funzionano bene, non prendono colpi, e vanno alla grande, capito? E a Claudio, questa sono modulata adesso, l'ho aperta, questo è l'inter, è preciso, solo guarda, puoi mettere il frontalino, puoi cambiare il frontalino, è uguale, capito? Solo che questo non è 34 ma arriva a 200 canali, capito, ci rischia arriva da 14. Però se tu lo apri dentro è gemello unificato, preciso qua, all'88, preciso dentro i componenti tua, è tutto preciso, te lo immagini? È preciso significato, anche quella fagnetta che ti ho fatto vedere, che tu lo apri ed è gemello di questo qua, gemello, gemello, gemello. Lo so, già vanno bene. Sono tutti uguali, non c'è problema. E comunque se lo trovi qualcosa lì, conviene usarlo, va. Sì, 34, tanto c'è tutto, c'è le bande laterali, è uguale, è uguale all'altro, è gemello, solo che è quadrato, è dentro, è il modello vecchio, dentro, tu lo apri e ne fai un trippetto, dentro io me lo ricordo perché non ce l'ho dovuto fare, forse è un po' diverso quello perché c'è tutti i quarti, invece questi no, non ce l'hanno i quarti come quello là, quello perché c'è i quarti, e volendo si può fare un quarto, per avere quel 45 famoso che vado io volendo, oppure secondo me si può mettere. Sì, che si può mettere, non c'è un problema. Credo di sì, è vero Antonè. Molto poco. Svegliato, c'è caduta grazie, aspetta, mi trova tu, N, del dibattito di Midland, esattamente. AM 612, poi c'è un T, io sono proprio di 74 10 P. Aspetta che sto cercando. Cerca. No, ma c'è qualcuno sotto che sta parlando, non so, come propagazione, cos'è? Mario! No, qua non c'è nessuno. Qua cos'è che è tutto vicino a te? No, non sento nessuno perché... No, questo poco fa ho acceso un altro e che mi stanno suonando una tipica su. Aspetta Claudio, mi ascolti? Come Antonio, col console ti sento tutto sciatto. Facilmente, però già ne ha qualcuno alpino, quindi Però me l'ha detto Roberto, dice, se dico io, dice, ti do la sigla, per andare a prendere, a comprarle. Quindi lì, vale. Però dice, ti do la sigla per andare a comprarle, per vendere, per me. Vabbè, allora fatela dare tu almeno la sigla, così magari me la passi, io vedo un po' se lo trovo, se li trovo su internet, capito? Perché senza sigla non lo so, proprio la sigla di quello del canale 45, o canali alti, dai, dal 40 in poi, capito? Dal 23 in poi, capito? Dal 23 in poi. Ecco, poi te lo sa anche buon pugno, quindi la sigla. Lo trovo anche pompone con la sigla, non è per me, non è difficile quelli lì, capito? È sapere dove bisogna mettersi, capito? Ci sono i buchi per infilarli, ci sono tutti i numeri, tutto, ci sono forse i voti, o per esempio devi togliere quello che fa il canale 40, per esempio arriva fino al 43, no? Però il 43, dal 23 in corso, devi andare sui canali sotto, hai capito? Quindi io mi sono spostati nei canali, credo, non so come funziona questa cosa, boh. E allora bisogna mettere qualcuno in quei canali lì, capito? Per esempio nel 22 a volte, tu, a me mi è capitato qualche baracchino che nel 22 o 23, anzi nel 23 iniziava il 41, 42, quei canali lì, capito? Ma te che cosa mi ascolti? Sì, chi è che chiama? Roberto, sono qualcuno che sono così a merda. Roberto, se non arrivi io non ti sento, adesso ti ho sentito e ti ho risposto, dove sei? Adesso già siamo visti, sono mai ascoltato e ti ho buttato tutto qua, capa. Ma ai carabinieri, quale sta sei? Ero come si chiama? Da portatore se vi sto chiamando, non mi fa perdere. Certo, sì, sono litigati, però non è stato il bianco. Ma sei tu che non arrivi, non è il bianco. Allora, se sei vicino ai carabinieri, mentre arrivando Santiago 7, fate il conto, se io ti posso sentire se sei lontano. Come mai qua? Allora c'è qualcosa, forse almeno, non ho visto se c'è una potenza massima questa radio, c'è due potenze. Vabbè, se mi arrivi Santiago 7, 8, ti stai avvicinando col segnale. Dai carabinieri, le tue immagini, se io ti posso sentire... un po' più lontano, praticamente non ti sentivo per niente, perché spazio già ce n'era, non c'è problema, ma lì c'è qualcosa che non va, perché qua devi arrivare a fondo scala dai carabinieri, ma stai scherzando? Cioè, quella cosa ti dico, non avete ascoltato, ti dico che eravamo bene, ti avevo le tante con calma. Eia, no, io sto andando col baracchino, sto andando con un Presidente Lincoln, il microfono è un MC80 con l'adattatore, ma c'è una bellissima ricezione, non c'è QRM, quindi per me c'è qualcosa lì che non va, vabbè. Ma è sempre in quel punto l'antenna? Adesso vediamo, ti passo Antonello, vediamo se ti sente meglio di me. E poi vai per Gigi, vediamo se senti a Roberto Quadrato, Antonè. Sì, te lo sento. Non mi ascolti tu, Antonè, sei grave? Sì, 9:10, 9:05. Che basso, è 1:30. Il basso sono addirittura 30, 35, non di più. Stacca il preamplificatore d'antenna, cane morto, 9:10, cazzo sto ricevendo io con la manta, ma Santiago 8, quando ha chiamato tu 9:10 con quell'antenna, stacca il preamplificatore. Sì, Santiago 8, 8:9 col presidente, fatti il conto, lui 9:10, lui c'è sempre il preamplificatore attaccato con quel C80, prova a attaccarlo a vedere. Sì, a prova che ho staccato. No, allora te non ho male, tu sei Santiago 7-8, se sei al Gonzaga dovete arrivare minimo 9:20 qua. L'antenna non sta pompando. Dai, al Papano lo sento, è zero completamente. Quell'antenna te deve essere chiusa l'antenna di gomma tu, per poter parlare al baracchino, perché non c'ha guadagno quell'antenna. Thank you. siamo tutto nuovo lì che c'è qualche problema, capito? Va bene, ti saluta Gigi Vulcà, ti saluta Roberto Quadrato. Un po' di cibo, ricamba tutto che qua non lo sento brutto, non l'ascolto. Ne approfitto, dai, a fare... Flavio, animi ti riprendo perché se su questo paradiso ce la portiamo dopo, faccio un attimo di fianco. Antonio, ricordati di chiedere quel finale lì, capito, farà così. Ciao a tutti, dai, che faccio un po' di fianco, animi ti ce la portiamo dopo, più tardi. Ehi, d'accordo, dove anche la guardo, comunque la N sta prima 40, già me l'ho segnato. Andà bene, riprendi qua. Cosa Luca? È un po' idraulico, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Lu, ben sentito, buonasera anche a te. Ciao Gigi, ci sentiamo alle prossime, dai, stammi bene. C'era Tonino Attila, non so che fine ha fatto, attento Tonino. Questo è Palido, KK, ma forse lui è andato a mangiare che deve prendere sicuramente qualche pastiglietta. Dai, passiamo al canale 10. Dai, io sono 10. Eccomi qua. Va bene, rimaniamo qua sul 10, io sul 5 che stavo ascoltando a Gio Maria con Tonino, poi siete entrati voi. KK. Ascolta Lugariello, mi senti? Luca? Sono molto, Luca? Eccomi. Tu hai per caso, ti hai fatto per caso lo schema, attento, lo schema, o dell'adattatore, o del jack, mi pare che tu c'hai il jack diretto senza adattatore, NB più 5 per Kenwood, diciamo, dai, che poi è un filo da invertire, Iaesu. Quanti fili hai usato tu, anziché usarne 8? 4? Positivo. Quindi hai eliminato il down e up e l'alimentazione della radio, perché vai a batteria, così è. Positivo. Allora, Gabo di Bugnè, domani, Antonello Alessio, domani, ti porto l'MB più 5 e mi fai davanti a me le connessioni per lo Iaesu, mi capisti? Sì, non è uguale a quella del Kimbo, la connessione del diverse sono. In pratica devo eliminare l'up down perché non me ne faccio niente, poi se tu vuoi l'alimentazione degli 8 volts dell'apparecchio, se c'è un filo in più sull'MB più 5 si può anche fare. Come ho fatto io con Kimbo in pratica? No, Antonio, noi l'alimentazione gliela escludiamo perché è sempre un pericolo. L'MB più 5 ha le sue batterie e si fa andare con le sue batterie, quindi si elimina gli 8 volts, il down e up, capito? Il down e up, e si usano 4 fili, tanto ciò, il microfono normale, si stacca il jack del microfono normale, che non serve a niente il microfono normale, proprio zero sotto zero, e si prende quel jack, quello spinotto, e si attacca a quello dell'MVP5. Così ci sono anche le connessioni, i colori, e si cerca di rispettare i colori e facciamo anche prima. In caso contrario abbiamo anche la radio per provarla, capito? Vabbè, tu dimmi, allora, gli attacchi che tu vuoi fare di quello di Aesui sono uguali a quelli del 80? Quanto me, c'è un filo diverso, mi pare. Un filo diverso c'è, perché va in PTT ma non va in trasmissione, capito? Comunque, io ho la radio, il microfono normale e l'MVP5 col jack a 4, quindi bisogna togliere quel jack a 4 e mettere quello normale. In caso contrario si compra 8. Intanto io devo andare da Fusaro domani, perché da Fusaro a GBC, perché devo comprare un paio di PL che mi servono per Pinuccio, di quelli belli, buoni, e se ce la compro direttamente il connettore, così con testa si fanno le misurazioni del quello normale e si mette il connettore nuovo a quello all'MB5, capito? Non è roba mia, me l'hanno fatta fare, ma io non le faccio perché non ci vedo una minchia. buonasera. Grazie che non muore interessante. Meno male che ogni tanto ti fai sentire. Almeno via radio, visto che hai perso il numero di telefono di Claudio Sparviero. Ma sai cos'è? Che ci ho buttato dietro una lavatrice, assieme alla casa. Qui ho perso tutti i numeri, un casino. Sì, oi, già ti stai poco rincoglionendo, eh? Vabbè, ma sei sempre dove sono, non è un problema. Qualche volta di passaggio così, no, a dire che sono il campanello a Claudio a vedere se è vivo, morto, capito? Ero quasi morto, che ne sono caduto da 6 metri di altezza, però dico, almeno fatti vedere qualche volta. Potevi passare anche tu, già lo sai dove, io lo sai cos'è, Claudio, adesso sto lavorando sempre pure, capito? Quindi la sera torno sempre tardi, 10:30, 11, quindi è un casino sto lavoro. Io me l'ho detto Pinuccio, non so se te l'hanno riferito, siamo visti con tuo cognato e ti ho mandato anche i saluti e me l'ha detto che sei sempre incasinato e stai rientrando tardi, ma già lo so, il periodo estivo per te è un casino, però la domenica io sono sempre disponibile, non ci sono problemi, sappilo, è che ero un po' incasinato, anch'io non sto uscendo perché ero col braccio, diciamo, ingessato e quindi non potevo guidare, perciò non stavo uscendo. Però quando ti vuoi far vedere, problemi non ce ne sono. Avanti, Lugarie, mia bollone. Brava. Via, via. Comunque, per il resto tutto bene, sì. Papa, qua, tutto a posto, tutto risolto, quel casotto là, tutto fatto, sistemato, tutta mano legale adesso. Cappa, cappa. Vai, Lugarie. È sempre fuori? Ah. Vabbè, sentiamoci per telefono, Lui ci facevano due chiacchiere. Oh, Lugarie, ci sei? Ascolta, qua, dammi un rapporto di segnale di radio, come sto arrivando a quella zona. Sì, te non ti avrei neanche riconosciuto di quanto sei forte, io sto andando col baracchino, con un presidente Lincoln, e sei fondo scala praticamente, la radio è fortissima. Capo, sto pilotando sempre con quella radio là, capito, che tu sai, e adesso era da molto spenta, capito, quindi la voluta accendere a vedere se stava andando sempre bene la questione. Quindi mi serviva per quello, fare fondomi, perché a Versaglio mi doveva al cuore. Ho fatto uno di Olbia, ma mi ha telefonato, mi ha detto uno spettacolo. Quando gli è arrivata la radio, oggi mai ci buona pinì. nuova, proprio nuova di pacca. Avanti a Alessio, riprendi. Vendiamo tutto, vendiamo, che è spatolata stasera su Google, c'erano pochi barattini a 60 euro, che se tu 40 cani ma belli. Ah, sto vendendo, un amico sta dando 3 Midland, uno di questi è modificato, ne vuole tutte e tre praticamente 400 euro. Ma no, non ne prendo più baracchini, non ne prendo più, no, faccio la casa piena di baracchini. No, non mi interessa più. Vedi, se mi capita qualche bel base, sì. Adesso ho preso questo Saturnecco, Antonello me lo sta sistemando. C'ho anche un bel base, che è quello lì, poi ne ho altri. Poi c'ho questo che è il top, il fiore all'occhiello dei baracchini, è un President Lincoln, sto usando l'MC80, fate il conto. Sto usando l'MC80 col President Lincoln, Ofra. La radio è molto bella, vabbè, sta arrivando benissimo qua. Sì, no, quasi 960 ti è arrivato. La radio è buona, ultima. Questa spinge la radio. 1, 2, 3, 4, prova, 1, 2, 3. Questo si spinge. Una bomba, sta lì tu sia sulla scala, non ho mai capito. Con te siamo più a vista ottica. Con Luca rimane un po' più sotto, però sta arrivando un bel forte. Parecchio. Vabbè. Beh, fidanzato diceva. E qualcosa con la tiracca di gamboni. Ma che fidanzato, Claudio, ogni tanto una esco, una passeggiata, va, un calcio nel culo a quel paese. Sì, così devi fare. Così devi fare, capito? Una passeggiatina, una pizzetta e via, e su che andiamo, sennò poi è un problema. Meglio soli che mai accompagnati, diceva quello. Vero, è così. Se vuoi scegliere a prendere il caffè, scegli, non ci sono problemi. Io vado di Salugo. Se ci vedevamo stamattina, mi sono uscito a fare le commissioni, sono andato a Città Mercato, così a farmi una passeggiatina, a prendere due stronzate. E niente, e poi me ne sono rientrato a casa. Non ne vogliamo, fra, sto sempre lavorando come cane anche io. Sono rientrato l'8 di agosto a lavorare io me. Ho fatto maggio, giugno e luglio a casa, capito? E sino al 7 di agosto, l'8 sono rientrato a lavorare. Ero 3 mesi tutto fasciato, pari uno zombie. Io sono andato in agosto in fede 15 giorni. Perché c'era poca roba da fare, capito? Quindi non era. Doveva arrivare il materiale, quindi erano tutti in ferie, allora mi sono andato in ferie per 15 giorni. Adesso dovremmo ricominciare questi carceri qua, adesso vediamo, il 20-23 di settembre. E poi riprendiamo di nuovo, tutto qua, tranquilli. Questa rete ce l'avevo come di tempo ferma, claro, capito? Quindi gli ho acceso e ho detto, cioè, se funziona ancora come prima. E invece ho visto che sta funzionando tutto perfettamente, qua. Invece va bene. Andarmi in me, d'accordo, che già lo sai dove abito, quando vuoi passare passa, non ci stanno problemi, là. Vai, Antonello. Sì, d'accordo, già andiamo, ci piacchiamo, Ofra. Siamo a quattro gambe. E non è un problema quello. Parliamo, spendiamo 100 euro a qualche bar, diciamo qualche ragazza e via, a trubare. Io l'altra sera sono sceso giù a Levere con Antonio, ieri sera ci siamo andati a quattro gambe da Levere, mangiato la pizza, tutto quanto, poi abbiamo trovato degli amici, abbiamo guidato la pizza, per carità. Sì, niente, avete me la potevo andare a casa, faccio prima, vada qualche volta che con Claudio. E poi basta, neanche al cibo sto più andando. Capito? Mi sono pagato i buffi, mi è rimasto solo qualche cosa adesso. Finché non mi chiamano per lavorare, sono in stand-by in pratica. Sto aspettando, speriamo che ci muovano. Adesso tutti rientrano in ferie, quindi facessi qualche cosa, speriamo bene. A scuola al circo, perché c'è il circo a Sassari? C'è il circo, l'ho detto, non il circo. Ah, il circo, no, io al circo non ci sto andando. Mi qualche sera scendo sempre lì da Marcello, è vero, Claudio già lo sa, va bene. Comunque fatti vedere o fatti sentire, già lo sai dove so. Poi fammi una bassa se ce n'è ancora il mio numero. Perché io il tuo l'ho perso, capito? E praticamente la scheda sono riuscito a salvarla. Il telefono invece no, il telefono ho dovuto buttare via perché non buttare via, ce l'ho qua, ma non funziona niente. Perché il numero tu l'avevo memorizzato sul telefono, non sulla memory card, capito? Aia, già ti chiamo, te lo memorizzi, non c'è problema. Ma ce l'ho io il tuo, già ce l'ho, non problema, e anche io mio stesso l'ho perso, cioè perso, mi è caduto in acqua quando sono volato giù nella vasca, e quindi ce l'ho buttato lo stesso il telefono, però la memoria l'ho recuperata, e non c'aveva niente, i numeri sono rimasti tutti al suo posto, capito? Già va bene, fatemela da me, messo appena a posto Luca, che c'era bisogno di bruciato, mi ha donato, ma l'ho messo a posto che si è beccato col telefono volante, mi ho dovuto riprendere un altro simile a quello, da due citti, già va bene. Magari a Bisesi. Infatti, io l'ho preso nuovo, preso un doppia, già va bene così. E io ce l'ho anche a casa adesso il telefono qua, capito? Dovrebbe dare il numero. Allora, scusa, ci possiamo sentire anche a casa, non c'è problema. Ciao Fabri, buonasera. Messo in minuto, aspetta se non si sparta lì, vabbè. Mi ho sentito di più fuori. Sì, lei è compagnia di Franco California, Luca e Antonio D'Alessio. Vai, fa, poi Fabrizio. Ciao Fabrizio, buonasera, ben ascoltato. Ciao, sono ben sentita certe, perché tutti già decidono la rosta. E me però cosa è andando qua. Sì, non ti ho detto, siamo usciti anche stamattina con Sandro. 5 di stazionale c'è con l'antenna. Immaginate che la cosa te le fa e si blocca a 5. Capito? Tutto qua. sentiamo dopo. Ciao Claudio, ciao Antonello e ciao anche a Luca. Riprendo dopo il break, ok? Ciao, d'accordo, qua siamo, fatti sentire. Pregiati il telefono, ti do il numero di telefono. Ciao, a dopo. Avanti, Fabi. Ho visto la scuola io. Just Pinocchetto, avanti Pinocchetto. Poi appena detto convincenti arrivato lì un problema, non un problema, dunque c'è sempre la porta Torres che ti saluta, Fabrizio, Luca e Antonio Mauricio, tutti va bene. Novità Sandro, ti aspettavo. Ci possono lamentare. No, va bene così. Non mi piace 7, mi ha fatto tutta la bassa anglona, l'alta anglona, la bassa anglona, sono entrato verso le 10, e si stava benissimo, va bene. Lo stavo dicendo un'altra cosa, alza B, dimmi, ma io c'ho il televisore, quello grande, no? Quello nel salone. Accendi il pulsante, no? Si accende la spia rossa, vai a dare l'impulso per partire, non parte. Parte dopo 2, 3, 4, 5, 6, anche 10 volte. Ma cosa può essere? Fabri, fatto 50 euro di radio, cazzo. Ma quindi lascialo tranquillo. Si è mancato, da 9, boom, ha detto, mamma mia! Guarda, mi viene il coso, cazzo. Mamma mia, guarda. C'è una radio così bella, Quindi a posto. È un cazzo di antenna di merda, che so cosa gli ha preso, Dove si è andato in tinto? Ma può essere, Fabi, quel carretto che va sempre in tinte? O può essere il PL su il capo in corto? No, è messo a posto, con tutto, Fabio. Ok, a dopo. qualcosa, il mic gain troppo alto, vai. Ma così già va bene, sia la grande. No, ti stavo chiamando per dirti appunto, secondo me, anche se come Fabrizio ci aiutavo un po', c'è qualcosa nel cavo, che è impossibile. È impossibile avere tutte quelle stazionali. Sotto lo strumento, sotto il tester, non mi dà il voltaggio giusto, parte da 10 volt, da 10 volt, poi piano piano sale, sale, piano piano, insomma non c'è, è una gran smontata al alimentatore. Adesso sto usando sotto lo switching. Certo Sandro, te l'ho detto, io non è che parlo perché voglio dire troppo. Lo stesso problema, il succo alimentatore ogni volta ce la pianni, lo stesso problema. Quindi lui sta molto molto attento, molto molto attento, capito? Perché è molto pericoloso, è una serie, è quella serie lì che ha creato grossi problemi, un po' di gente. Quindi stai molto attento anche quando usi per radio buone, capito? Perché puoi andare tranquillamente con quei switching piccoli a 25 ampere, perché ci sto andando col 140, me lo porta benissimo, e sono a 30 watt di portante, 40 watt di portante, oltre i 50 modulati, e non è pure il pane che è il toro, quindi è un buonissimo alimentatore, non ci sono problemi. Amicacci della frequenza, qui è qualche dove fa chiamata e...